Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora una volta parliamo di bollette, anzi di contatori, questa volta contatore del gas, una vicenda che ha ormai alcuni anni alle spalle, come spesso purtroppo succede, che cerchiamo di farci riassumere dall'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico. Ben trovata. Grazie Mirko, buongiorno a tutti. Allora, andiamo indietro di alcuni anni, giusto? Una vicenda che tu stessa avevi seguito. Sì, esatto, diciamo torniamo al 2011. La questione è semplicemente questa: si torna a parlare di disservizi da parte di Enel, in questo caso si tratta di Enel Gas, e la nostra socia aveva acquistato nel 2007 un appartamento all'interno di un complesso residenziale che aveva la peculiarità di avere il contattore per la segnalazione del gas in comune con gli altri proprietari delle unità immobiliari. Dopo qualche anno, e precisamente nel 2011, la nostra socia si è rivolta ad Enel per farsi installare un contatore del gas autonomo in maniera tale da poter fruire di una misurazione dei consumi personalizzati. Di tutta risposta Enel fa un preventivo di spesa che ammontava a quasi 1.500 euro, con la promessa che una volta eseguito l'intervento da parte del tecnico di Italgas, entro 10 giorni successivi la nostra socia avrebbe avuto diritto ad avere installato il contattore. Ecco, tutto questo non si è verificato per tutta una serie di vicissitudini, e prima fra tutte un errore di misurazione da parte del tecnico Italgas che ha preso una misurazione sbagliata e quindi ha fatto lo scavo nel quale poi dovevano essere allacciati i tubi in un luogo dove non doveva essere eseguito, proprio c'è stato un errore di misurazione. E nonostante questo errore, nessun tecnico è più intervenuto per porre rimedio alla situazione, e ancora oggi, dopo quasi 2 anni dalla richiesta, la nostra socia non ha ancora questo contatore installato, quindi deve ancora accontentarsi di pagare le bollette facendo riferimento a dei contatori di gruppo, sostanzialmente chiamiamoli così, a dei contatori in comune con altri utenti. E c'è speranza che riesca ad avere assecondata questa sua richiesta, oppure ha perso le speranze? No, guarda, c'è speranza, perché noi dell'ufficio legale di Adico abbiamo già inoltrato una diffida ad Enel che ci ha anche risposto, diciamo che la nostra prima mossa è stata questa, ovvero innanzitutto abbiamo chiesto la restituzione di quanto aveva corrisposto la socia in eccesso, quindi sia i soldi del preventivo sia i 300 euro che la socia aveva corrisposto al tecnico Italgas, che per di più aveva sbagliato la misurazione. Successivamente Enel Energia ha chiesto alla nostra socia di reinoltrare la pratica, quindi di fare una pratica nuova per avere diritto a questo contattore autonomo, e adesso siamo arrivati ad un punto di stallo, ovvero Enel ha rifatto un preventivo alla socia che è ben superiore di 300 euro rispetto a quello formulato nel 2011, e quindi noi dell'ufficio legale Adico stiamo insistendo innanzitutto per far eseguire l'intervento allo stesso preventivo del 2011, quindi senza la maggiorazione dovuta, penso, ai costi di aggiornamento, anche di rivalutazione ISAT, senza i costi maggiorati dovuti al trascorso del tempo. E inoltre abbiamo chiesto un risarcimento del danno per il ritardo, anche perché il risarcimento è giustificato dal fatto che questo ritardo è causa esclusiva di un errore di misurazione da parte di un loro tecnico. Quindi abbiamo chiesto forfettariamente un risarcimento del danno complessivo di 800 euro per sopperire al disagio sopportato in questi anni. Ecco, adesso siamo in attesa di risposta, ma siamo comunque molto fiduciosi, perché è triste dirlo, ma quando queste grandi compagnie come Enel o Eni che sia vedono l'intervento di Adico, soprattutto dell'ufficio legale, hanno sempre un occhio di riguardo, riusciamo a fargli quella pressione psicologica per fargli eseguire quello che avrebbero già dovuto eseguire da tempo, ecco, quelli che sono i loro compiti. C'è un tempo massimo entro cui devono rispondere, o sono tempi così X? Allora, guarda, generalmente dovrebbero rispondere entro 30 giorni dalla notifica della missiva, insomma, dalla notifica della nostra diffida. E poi generalmente noi cerchiamo sempre di chiudere un occhio, nel senso che un conto che non mi risponde dopo 40 giorni, poi nel caso in cui non ci rispondano noi continuiamo con i solleciti e poi eventualmente si apre poi un'altra fase, che è quella, se viene poi prospettato al socio, quella che può essere la via giudiziale. Speriamo sempre di non arrivarci. No, speriamo sempre di no, ovviamente, perché poi, certo, anche perché il nostro compito è quello di risolvere il tutto in via bonaria, in via stragiudiziale, facendo rispettare le regole a questi grandi colossi che sono gli enti gestori, insomma, delle utenze, ecco. Insomma, nel vostro piccolo, che sta diventando grande, si fanno queste piccole battaglie a favore degli utenti. Speriamo che poi qualcun altro non incappi in questa vicenda, o comunque da questa vicenda possa imparare. Ringraziamo allora ancora l'Adico, l'avvocato Gioia Barbato, alla prossima. Grazie a te, arrivederci a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.